agosto preferisco calpestare un altro posto. Non sopporto, non sopporto ristagnare nel mio porto. È la schiuma in superficie. Cosa dice?